Buonasera, siamo di nuovo qui ai Colori dell'Anima, due lunedì di seguito, quindi siamo contentissimi, emozionatissimi di avere un'altra ora con voi da condividere per presentarvi una nostra ospite speciale. Ma ricordiamo le frequenze: siamo su Radio Alma 101.9 FM, siamo qui a Saint-Gilles, a Bruxelles. Per contatti con noi su un telefono fisso potete chiamarci allo 02 345 26 56 o per mandarci dei messaggi allo 0471 e non ci ricordiamo il seguito del numero per mandare messaggi, ma Angelo ce lo dirà appena possibile. Alla regia c'è Angelo, c'è Giampaolo e in studio abbiamo la nostra ospite specialissima che si chiama Loreto Galan. Ciao a tutti. Noi siamo contentissimi di poterla ospitare qui perché ci consente di affrontare un tema che a quanto pare non è stato ancora affrontato qui a Radio Alma, in particolare Colori dell'Anima. Qual è il tuo lavoro, Loreto? Io lavoro come interprete di lingua dei segni. Ok, bellissimo. Allora, da dove innanzitutto, anche se difficilmente vi avrete bisogno di tempo, ascolterete un accento particolare di Loreto. Anche il riso. Io sono dalla Spagna, sono nata a Siviglia e il mio italiano è così, un po' sevigliano. È bellissimo il tuo italiano, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto una piccola, come dire, pre-intervista e niente. E stiamo svelando già troppo per i miei gusti, stiamo svelando già troppo. Giampaolo, ci vuoi ricordare come i nostri amici radioascoltatori possono mettersi in contatto con noi qui a Radio Alma? Ovviamente potete raggiungerci sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air, potete commentare i nostri stati, potete inviarci dei messaggi, potete mettere mi piace, noi risponderemo, vi saluteremo, chiariremo i vostri dubbi e visto che l'argomento di stasera è veramente veramente interessante, io vi invito a farci veramente delle domande e intanto ne approfitto per salutare Matteo e Chiara che sono sicuramente in ascolto, che ci hanno già contattato sulla nostra pagina Facebook e invito tutti gli altri a fare lo stesso. Ciao! E ciao a tutti, grazie Giampaolo. Io ricordo come prima mi ha chiesto Carla il numero di cellulare per gli SMS. Allora, se inviate gli SMS dall'Italia è lo 0032 471 407804. 0032 471 407804. Fateci sapere se avete delle cose da dirci, scrivetecele. Noi siamo qui, passeremo i messaggi più belli in diretta e ricordiamo ancora le nostre frequenze e il numero di telefono. Allora, siamo su Radio Alma 101.9 FM e per telefonarci in diretta, quindi poter porre anche delle domande a Loreto, dovete fare lo 02 345 26 56. E benissimo, abbiamo introdotto il primo brano, abbiamo introdotto il tema della trasmissione che, Carla, ce lo vuoi ricordare il tema della trasmissione? E se non sento, come parlo? Benissimo, e se non sento, come faccio a parlare? E proprio su questo lanciamo il primo brano dei Loopy Brothers che si intitola Perfect Groove. Colori dell'anima. Buonasera, siamo qui a Radio Alma, i Colori dell'Anima, le frequenze sono 101.9, siamo a Bruxelles in diretta a Saint-Gilles, per essere in contatto con noi potete mandarci un messaggio o chiamarci al numero fisso 02 345 26 56 o potete interagire con noi sulla nostra pagina di Facebook su Angelo e Carla On Air e c'è Giampaolo che si occupa prodigiosamente di questa pagina, aggiornandola con foto appena scattate, commenti, aggiornamenti. Ragazzi, eccetera, fatelo eccetera. Lavorare perché ha una faccia distrutta proprio, non ce la fa più, sta quasi per addormentarsi. Scrivete, fatelo lavorare perché è arrivato oggi fresco dalla Sicilia e ha detto che ieri sera ha fatto bisbocce. Quindi Giampaolo, cosa hai da dire a tua discolpa? Ma mia discolpa niente. Allora, quello che posso dire è che già comunque hanno cominciato a scrivere sulla pagina Facebook, così sorvoliamo sull'altro argomento. Che dicono sulla pagina? Ma niente, c'è Carmine Fortino che ci saluta, ciao Angelo, ciao Carla, e c'è Giovanni Trotta, ciao a tutti ancora, ciao, grazie Giovanni. Ad Angelo, tanti mi piace sulla foto, e vedo tanta gente che ci sta ascoltando. Quindi... Saranno sicuramente curiosi di questo nostro argomento, di sentir parlare Loreto e di questo splendido lavoro che porta avanti. Eh sì, così avete potuto anche dare un volto attraverso la foto a Loreto Galan, che è qui con noi, interprete del linguaggio dei segni, e che ci spiegherà un po' quello che fa, da dove viene, come è arrivata qui a Bruxelles, eccetera, eccetera. Ok, comincio. Vai. Io sono arrivata qui a Bruxelles questo mese, fa un anno. E 4 ottobre sono venuta e ho iniziato a lavorare nell'ente europeo dei sordi, si chiama EUD, European Union of the Deaf, lì come interprete. All'inizio erano solo 4 mesi, poi è diventato un altro mese in più e un altro, poi ho deciso di rimanere qui perché in Spagna tutti conosciamo la situazione che abbiamo adesso. E forse lì non c'era, il lavoro che faccio qua non posso farlo lì. Adesso. E lì facevi da interprete spagnoli. Penso che un po' tutti noi non possiamo fare il lavoro che vogliamo fare nei nostri paesi. Perché pure in Italia va molto a schifio la situazione ultimamente. Ma c'è sempre speranza. Certo, è l'ultima a morire, lo dice sempre mia nonna. Anche la mia. Poi, come si chiama? La mia nonna Teresa, Marinchiello. Come la mammina di Angelo. Salutiamo la nonna di Loreto, Teresa, che sicuramente Angelo, ci sta ciao. Ascoltando. Anche mio papà si chiama Angelo. Benissimo, vai, caramba, che sorpresa, ragazzi. Scusa, continua. Sì, ritorniamo. Ok, sì, ho lavorato come interprete di lingua dei segni spagnola. E anche come insegnante di segni, un corso per loro che volevano imparare i segni. Ok. Ma quello che ho studiato, che mi è piaciuto da sempre fare, interprete di segni. Tu ci dicevi che il percorso di studi in Italia è diverso. Sì. Quello che io so è che prima devi essere laureato e poi fai delle corsi per diventare interprete. In Spagna invece è diverso, prima fai... il liceo e poi puoi scegliere diventare interprete dei segni. È come una mini laurea, diciamo. Sì, non è universitario. Okay. Poi io sono andata all'università dopo. Uh-huh. E ci dicevi che hai scelto come università traduzione di interpretariato. Giustamente, hai seguito il tuo filo conduttore che ti stesso, ha. Sì, stesso, gli stessi studi, perché è quello che aveva in mente di migliorare. Non era così convinta, invece non ho finito tutta l'università, ma è perché ho già cominciato a lavorare, poi ok, finirò non so quando, ma... E tu ci dicevi, non so se hai scelto, come hai scelto questo lavoro? Sì, infatti, perché ho pensato, l'ho scelto io, mi ha scelto a me il lavoro, come va. La storia è che io sono andata in Inghilterra quando avevo 8 anni. Poi non parlavo inglese, niente, solo parlava solo spagnolo. Quell'anno avevo ricevuto un po' di lezioni di inglese, hello, my name is, e basta. Poi io sempre ricordo il mio primo giorno di scuola, che io capiva quello che c'era, ma io non potevo comunicarmi. Ma non lo ricordo come un trauma o niente male, no? Era una situazione che ho vissuto, che ha fatto un'esperienza, un segno dentro me. E poi ho imparato l'inglese così subito, perché avevo 8 anni, sai, 3 mesi di scuola e parlavo... La mente più fresca, non sì, come sì. Adesso, per farti entrare una cosa... E per esempio, per far entrare il francese è un po' difficile. Ecco, va bene. E poi ho rimasto lì... Fino a 14 anni sono tornata in Spagna. E quando quindi sono 6 anni sei stata 6 anni, sei anni in Inghilterra. E poi quando ero lì in Inghilterra, nella secondaria abbiamo preso, io e mia sorella abbiamo preso lezione di italiano, ma quello italiano basico, ciao, mi chiamo, ho 13 anni. E mangiare, io mangiare, io fame. Io mangio, sono in ritardo. C'era questa frase sempre: mi dispiace, ma sono sempre in ritardo. Io mi ricordo sempre. Il cliché. Mi ricordo sempre mia nonna che mi raccontava di. Noi abbiamo parenti in America, no? A New York. Uh-huh. E questi parenti un bel giorno sono arrivati nel paesino di mia nonna e non sapendo una parola di italiano. Yeah. E mia nonna, ovviamente, che voleva sapere l'inglese, non sapeva niente, mia nonna, solo il dialetto. E quindi questo qui li ospitano, li fanno mangiare. Gli americani mi possono immaginare: ah, great, thank you, e mia nonna, mi immagino la faccia. E mi racconta sempre che una mattina questo americano si sveglia e va vicino a mia nonna e fa. Poi dopo ho conosciuto l'americano e lui mi diceva che chiedeva: can I make scrambled egg? Mm-hmm. E mia nonna faceva: ah, can I make scrambled egg? Ma che bogist! Ma can I make scrambled eggs? No, ma che vuole questo? E a un certo punto l'americano ha cominciato a fare. E mia nonna non capiva e l'americano ha continuato. E ha fatto il segno dell'uovo che usciva e lì mia nonna ha capito e gli ha dato l'uovo. Beh, per ai piccola parentesi familiare che sicuramente commenteranno su Facebook. Per quanto riguarda le lingue, ma qua abbiamo Loreto che ne parla già tantissime. E in più quella dei segni, mamma mia, che bello. Scusi, io mi ritiro con vergogna nella regia. Via, via, punizione. No, perché è bello vedere Angelo come parla con i segni, come proprio italiano. È bello, quello che dicevamo. Ma scusa, io era per... Parlavo, mi sono persa un po'. Ti stavi parlando? No, parlavi dell'italiano che hai imparato dell'italiano. Poco a poco all'italiano. Sì, ricordate i ragazzi che c'era il tempo che non c'era l'internet. Come no, c'era il vecchio modem. Quello lì dal 93. Quello ancora. Ma tu sto parlando dal 93-94. Poi l'internet non era così. Non era. Sentire qualcosa che ti collegava alla terra, al tuo paese, per esempio per me era l'italiano, perché c'era una comunità grande di italiani lì dove... Siamo ovunque. È vero, anche di spagnoli. Anche voi. Sì, sì, infatti. Ma quelli che erano vicino a noi erano gli italiani, poi. Da sempre ho sentito questa somiglianza con gli italiani, poi... E per quello, secondo me, che ho scelto anche imparare l'italiano, perché mi risembrava un po' casa. Okay. Ma quindi tu hai imparato l'italiano, però non sei mai stata in Italia? Ci sono stata in Italia. Ma non per studiare? No, non per studiare, sono stata lì... In vacanza. Ma scusa, ma tu vai in Italia per studiare? Ma che domande sono queste? In Italia si va per mangiare la pizza, per mangiare gli spaghetti, andare al mare. Ma io non lo so. Prendere studiare. Ma io non lo so. Ma magari vai per imparare la lingua, non lo so. Lei invece l'ha imparata senza andare. Cioè, no, pensa ci che sono brava. ci sono stata più di 4-5 volte. Perché ho degli amici lì in Italia, specialmente Venezia, questo fine settimana mi hanno fatto una visita. Vi saluto della radio. Andrea e Silvia, che sono stati così carini. Ciao casa Andrea mia. E Silvia. Ciao, ciao, anche Caterina, Samuele e il piccolo Elia. Abbiamo fatto una bella festa a casa mia. Non ci hai invitato, vabbè Loreto, via, fuori, esci. No, per la prossima festa di merito. Comunque, ritornando alla domanda, come hai scelto il tuo lavoro? Quindi ti sei trovata una volta a non poter parlare correntemente, sì, perché eri lì in Inghilterra, non parlavi l'inglese, quindi forse è stata la tua prima esperienza di disagio, vorrei parlare ma non riesco. È così, anche ci vado indietro i miei ricordi, prima dei quando io ero piccola, prima dei, come si dicevano? I cartoni animati. Prima dei cartoni animati, perché ho detto i fumetti e so che non sono i fumetti. Prima dei cartoni animati c'era sempre questo newsflash e c'è anche l'interprete che raccontava le notizie. E io ho questo ricordo visuale nella mia memoria. Poi dopo ho dovuto scegliere, quando sono tornata in Spagna, quando avevo 14 anni, ho dovuto scegliere cosa studiare, no? Dopo il liceo. Non volevo andare in università perché era un po' così. Quindi hai fatto questa scuola di 2 anni. Di 2 anni. E che ho dovuto fare il primo anno. Che si chiama? Si chiama, da noi si chiama Tecnica Superior en Interpretación de Lengua de Signos. En Interpretación. Io è l'interpretación, è l'interpretación. Ma come io sono da Sevilla, io direi Interpretación. No, mi hai No, sì, dai, mi che spiace, piacere. Non no. Poi sì, ho fatto questo corso, ho dovuto rifare il primo anno. Perché non avevi pagato la tangente? No, ho pagato tutto, io andavo in pure la tangente? No, ho pagato tutto. Ah, vabbè, pure la tangente, signori, ha pagato la tangente, quindi ha dato il diploma con la tangente. Scandalo! No, ho pagato tutto, bisognava un po' di più sicurezza a me stessa. E poi ho fatto il mio corso, ho ricevuto il diploma e poi sono andato all'università. Poi ho fatto un po' di tutto, ma forse non ho scelto il cammino... Un che po' tu di tutto scegli. Come interprete o come studente, ma interprete verso tutte le cose, ospedale, lezioni, che ne so, chiesa, e quello che tu ti puoi anche andare in giudizio, anche andare a... Mi manca la parola. Ma non ti preoccupare, anche a noi mancano le parole. Siamo italiani, non ti preoccupare. Ci dicevi che addirittura sei stata in Vaticano. Ci sono stata in Vaticano anche. Una delle cose che a me mi piace fare in più, anche non è che sono esperta, ma ho ricevuto un po' di lezioni su questo, anche è quello che faccio meglio, è l'interpretazione liturgica. L'ho fatto in Spagna nella pastorale dei sordi tante volte. Wow, che bello! Sì, che bello. Non ci sono rimasti bello. Tu come abbiamo, aperto, detto abbiamo prima. Aperto un nuovo capitolo. Però vedo Giampaolo che scalpita. Congelati, Loreto, perché ritorneremo presto da te, Giampaolo. E a proposito di cose che si congelano, io voglio lanciare il prossimo brano, che è un pezzo di Angelo Gregorio, che si chiama per l'appunto Brufen Clogged Nose. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E rieccoci qua in diretta con i colori dell'anima. Io sono Giampaolo, con me al microfono c'è Carla, in regia Angelo Gregorio, ma soprattutto un ospite straordinaria, Loreto Galan, che stasera è venuta qui ai colori dell'anima a parlarci del linguaggio dei segni, perché lei è, come avete sentito nella parte precedente, interprete. E ci stava per l'appunto raccontando Loreto di come questa sua esperienza sia legata in parte, in una misura importante, con l'interpretazione liturgica. Certo, perché secondo me si deve fare anche l'interpretazione liturgica, non è solo una cosa, una messa, una domenica in anno, o io dico messa perché io ho fatto l'interpretazione liturgica cattolica, ma sì, c'è la, per esempio negli Stati Uniti esiste una grande tradizione di interpretazione ebraica, sì. Perché loro ce l'hanno da sempre. Chiaramente bisogna rispondere a questa necessità che hanno queste persone che hanno difficoltà di esprimersi con diciamo di seguire anche la loro fede, le funzioni religiose, quindi è un servizio sì. Molto importante, penso. Per esempio per noi che ascoltiamo, noi possiamo leggere, capire e scegliere quello che vogliamo credere o no, ma se tu non dai l'opportunità a ognuno a ricevere l'informazione o la fede nella sua lingua, come si può fare? Poi anche l'importanza della predica, perché a volte sì, vabbè, la lettura, però a volte è importante anche ricevere qualcosa di vivo in quel momento nella messa che non puoi ritrovare su una scrittura, no? Certo, a me mi piace molto vedere la fede delle persone sorde, perché loro vivono la sua fede. Si vede nel corpo, si vede come si esprimono. È una cosa importante che devo dire come interprete, che non c'è bisogno essere cattolico per fare l'interpretazione liturgica, come non è bisogno essere medico per fare l'interpretazione medica, ma c'è bisogno avere la formazione giusta. Brava, diciamolo ad alta voce, perché vedo nel viso di Loreto che questa cosa le stava molto a cuore. Ripetila, sì, sì. Loreto, ripetila a voce grande e alta. A voce grande dico che non c'è bisogno credere per fare un'interpretazione religiosa, come non c'è bisogno essere medico per fare interpretazione medica, ma c'è bisogno ricevere o procurarsi la formazione giusta. Quindi agricoltori, per piacere, scendete da sopra al trattore, andate a fare la scuola e andate negli ospedali a tradurre per i sordomuti. Vai, andate, andate, andate. Se scendono tutti, chi lo guida il trattore? Vabbè, poi lo vado a guidare io, perché tanto a me poi lavoro noi che non ci me mangiamo, danno. Angelo, scusami. Poi però questo mi fa pensare anche a quello che mi dicevi prima, del fatto che tante volte ti hanno chiesto di tradurre delle cose con le quali non sempre eri d'accordo, quindi lì era tutta una questione morale che hai risolto nel modo che ci spiegherai. Il modo che io risolvo le cose, che provo e cerco di risolvere le cose, è il modo del senso comune, quello che è importante per me. Noi abbiamo il nostro codice etico come i dottori, stesso esempio. Che ci dicevi che era appunto non modificare il messaggio ricevuto. Infatti, è rispettare la scelta delle persone, no? Io forse posso, se io vado per esempio, vado dal dottore, il dottore gli dice al paziente, alla persona sorda, lui si deve fare un'operazione, io vedo che non c'è bisogno, chi sono io per dirle alle persone cosa devono fare? Io solo sono portatore del messaggio. E quello è importante, quello è anche importante, lo posso ripetere. Però il messaggio lo devi saper portare, perché, sì. Perché è importante. Perché è importantissimo e devi fare quello, non ti devi dimenticare mai che lavori con persone. Perché all'inizio, quando io ho studiato, era tutto, no, tu sei una macchina di interpretazione. Noi non siamo interpreti che siamo come quelli che vanno in conferenze, che sono in una cassetta e non si comunicano. Poi quelli proprio si annoiano, secondo me. Voi invece siete dei belli, sani interpreti. Quelli si annoiano, quelli si fanno due palle tante, fammelo dire. Invece loro no. No, allora, loro no. Vabbè, oh, che ho detto? Non ho detto censura. Niente. Censura, censura, va bene. Io volevo semplicemente dire che quelli si annoiano. E se siete in linea interpreti normali, fatevi sentire. No, abbiamo amore anche per questi interpreti. No, vabbè, noi scherziamo. E gli interpreti che ci ascoltano lo sanno. Infatti ci hanno già querelato, però vabbè. Poi noi lavoriamo con persone e ogni persona non c'è, io non ho trovato una persona uguale all'altra e io sono sicura che neanche voi. Poi ogni servizio comunicativo, non so come dirlo in italiano, ogni posto che io sono andata ho bisogno di avere la flessibilità e anche un po' di empatia, no? Per sapere se andiamo a un negozio perché c'è, non so, una signora che vuole comprare una lavatrice, la lavatrice lei vuole scegliere la miglior lavatrice che c'è, perché lei ha, questo è un diritto che lei ha, come io ce l'ho, perché le altre non ce l'hanno. Forse noi che lavoriamo in sociale abbiamo cominciato a fare questo discorso, no? A volte noi dimentichiamo che le persone disabili, che io questo termine non so fino a quanto, vabbè, però comunque che hanno un disagio, diciamo, persone, sì, sono persone come siamo noi. Poi non siamo numeri, siamo persone alla fine. Poi quello non ti può dimenticare mai. Monti avrebbe a che ridire su questo, ma comunque è vero, comunque siamo delle persone e tantissime persone ci seguono, ci stanno seguendo, sono arrivati i primi messaggi, ti passerò la linea in un attimo, Giampaolo. Il primo messaggio: come un arcobaleno immerso nel freddo di questo grigio autunno, la vostra trasmissione accende di gioia il nostro animo, unendoci in un unico meraviglioso grande abbraccio. Ciao a tutti, Rosalia, ciao, ti salutiamo tutti in coro da Radio Alma, i colori dell'anima. Ciao Rosalia. Ciao Rosalia. Ciao Rosalia. Ciao Rosalia. Abbiamo degli ascoltatori poetici, devo mamma dire. Mia, voglio, loro sì che hanno studiato e hanno preso le lauree, E comunque, a proposito di gente che ci ascolta, anche la pagina Facebook comunque è piena di commenti, di apprezzamenti. In tanti sono interessati veramente da questa trasmissione, dall'argomento del giorno, dalle cose straordinarie che ci sta raccontando Loreto Galan. E salutiamo Giovanni Trotta, Monica Fasan, Raffaella Palombella, Antonella Gangemi e tanti altri che stanno veramente manifestando il loro apprezzamento per questa tematica e per la missione che stai svolgendo, perché da quello che ci racconti si capisce che la tua non è una professione, ma è proprio una missione, ha una sua dimensione sociale importante e determinante. Non è la prima volta che mi dicono questo, che c'è una missione. È vero che io ho una vocazione con questo. Questo si era capito. Grazie. Ma sì, non è, anche ho trovato altre gente che mi hanno detto: sai, io ti ho visto una volta e poi ho deciso di fare dei corsi di segni. Boh, che ne so, perché noi non sappiamo. Anche io. Solo lui li fa senza corso. Infatti, era per dirlo. Giusto per parlare della competenza di cui dicevamo prima. Ma anche il lavoro che fa il lavoro che faccio adesso, che qui a Bruxelles noi sapevamo che c'è la politica, no? E lavoro. Ma dai, quando l'hai scoperto che c'era la politica? Primo giorno che sono arrivata, primo giorno lavoro, sono andata in Parlamento. Poi per me è stato un po' come dove vado? Cosa? Io voglio tornare a casa, piove, non conosco nessuno. Ma è stato bene, è una bella esperienza, perché sono. Si vede come la gente lavora, che abbastanza diversi di quello che... Tra l'altro io sono stata a Siviglia e ricordo che per l'ultimo dell'anno avevo portato un piumino, ma faceva caldissimo. Ah, infatti. Quindi ricordo benissimo il tempo di Siviglia e il sole che c'era, una città fantastica, quindi immagino lo shock. Sì, specialmente perché quando ho preso l'aereo 4 ottobre, nella mattina io ero lì con le magliette, i shorts, le ciabatte, e poi sono arrivata qui con la pioggia. Bruxelles, ma, che... ma noi abbiamo, io sto osservando Carla, no? È completamente rapita da te, tanto che si scorda proprio che sta in trasmissione, ti ascolta come se fosse uno che deve... Ma dai, è troppo interessante, lei mi ipnotizza. Angelo, guarda, tu forse stai là dietro il vetro col riflesso, non riesci a... E meno a... male. Però Loreto veramente, cioè, ti parla e ti racconta queste cose e ti incanta. E io a questo proposito volevo chiederle una cosa, perché abbiamo visionato dei video che ci hai fatto vedere nei giorni scorsi mentre lavori, e comunque ci ha colpito, almeno a me in particolare personalmente, mi ha colpito il tuo modo di porti con il pubblico, il tuo sguardo diretto. Aspetta, però diciamo che video era? Era quindi interprete di cantautorato, cioè di musica. E postiamolo anche sulla nostra pagina Facebook in questo istante, così i nostri radioascoltatori possono vederlo in questo momento. Ricordiamo facebook.com/Angelo e Carla, posteremo in questo momento il video che Loreto ci ha mandato, e è postato, è già, mi fa segno, no, non è postato, comunque vai, scusate, arriva presto. Questo è stato un concerto che ho fatto con un cantatore spagnolo, si chiama Tonchu, lui è bravo, mi piace da tanti anni fa, è solo una volta che ho lavorato con lui. E ho imparato tanto da lui, perché nel modo professionale che lei, io sempre vado e posso così un po' come chiedendo alla gente: ma per favore, se non è un problema mi puoi dare un po' di luce, ho bisogno d'acqua, perché interpretare ti dà tanta sete. Ma lui è parlato veramente come si deve fare, no? Come professionale. E la storia di fare interpretazione, di interpretare le canzoni, è perché ci sono tre varianti che devi tenere sempre in mente: c'è la musica, i testi, anche il senso, e poi quello che tu devi comunicare, quello che tu vuoi comunicare con le canzoni. Quindi in realtà dovresti conoscere la canzone prima di sì farla. È meglio, da noi sempre è meglio avere tutti i testi prima, perché c'è un lavoro preparativo precedente che non si vede, ma è vero, io posso ascoltare e cambiare un'altra però lingua. Non sai il senso di quello che stai dicendo. Infatti normalmente sì, prima del concerto ho studiato tutte, io conoscevo già le sue canzoni, era un po' fan, ma prima del concerto io non di so la verità, ti piaceva, l'hai mi chiamata, piaceva detto, morire lo voglio quando vedere avevo, lo voglio vedere quando io avevo 13-14 anni, mi piaceva un sacco, ma è stata una bella l'abbiamo esperienza. Visto, è un bel ragazzo e avremo modo di tornare su questo argomento, e intanto passiamo un po' di musica, e subito dopo questo brano Blackbird cantato da Carla Piombino e Jess Cole alla chitarra, ascolteremo ciò che il saggio ha da dire su questo argomento. Ecco a voi, per iniziare, Blackbird, Carla Piombino e Jess Cole. Ai colori dell'anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, contro la crisi e problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono orgogliosi di presentarvi il momento del saggio. Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici, mi presento, sono il saggio. La puntata di oggi vede i nostri amici Angelo, Carla e Giampaolo e i loro ospiti parlare di un tema poco esplorato e spesso superficialmente trattato, quello delle lingue dei segni. Quante volte ci è capitato di imbatterci in persone che dialogavano per strada in una lingua dei segni e aver pensato, ma come fanno? E certo oramai ne saprete di più del cui presente saggio sul fatto che le diverse lingue dei segni, come dice anche il grande Chomsky, sono in grado di veicolare informazioni, sensazioni, idee ed emozioni in maniera ugualmente efficace rispetto a una lingua orale. Se possiamo comunicare allo stesso modo in italiano e in cinese, oddio, il saggio no, però insomma qualcuno... Insomma, se possiamo imparare nuove lingue per comunicare, perché non provare con una qualunque lingua dei segni d'Italia, o francese, o fiamminga? Vabbè, lasciamo perdere l'ultima, magari. È un arricchimento personale. Potremmo dialogare con tante altre persone. Certo, le cose cambierebbero. Se a Roma tutti parlassero con una lingua dei segni, sembrerebbe quasi di stare a Bruxelles. Ed immaginate, cari ascoltatrici e ascoltatori, di parlare una lingua dei segni qui in Belgio. Il consiglio di questa settimana del vostro saggio è imparare una qualunque lingua dei segni e usarla a Bruxelles. Basta quel senso di frustrazione quando noi parliamo e dall'altra parte niente a parte un... Lasciamo che siano gli altri a scervellarsi. Quando qualche scostumato prova per strada a farsi largo senza chiedervi permesso, voi frapponetevi e gentilmente dite a lui o a lei, in una lingua dei segni, ma mi vuoi chiedere permesso? Ammirate il suo volto basito. Se il supermercato spegne le luci alle 19.45 invece che alle 20, voi, con la tranquillità di un Buddha, spiegate c'ho ancora un quarto d'ora. A proposito, quando sta la mozzarella? Ovviamente in una lingua dei segni dialettale, magari, ma con un po' di impegno si impara anche quella. È tutto per la terza puntata con il saggio, una buona settimana a voi e a presto. Ai colori dell'anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, contro la crisi e i problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono stati orgogliosi di presentarvi il momento del saggio. Ogni lunedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma, Rosanna, Anna Maria, Cristina, Barbara, Roland, Donatella, Carla, Angelo, Giampaolo. Sono felici di ospitarvi in un programma tutto da scoprire. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai? Ogni lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Alma, i colori dell'anima. Siamo ancora qui a Radio Alma 101.9 FM, potete chiamarci allo 02 345 26 56. Fatevi sentire, vogliamo delle testimonianze telefoniche, se conoscete qualcuno sordomuto, qualche amico, testimoniate perché sono sicuro che c'è molta gente all'ascolto che magari può testimoniare. Se volete inviare messaggi, 0032 471 40 78 04, oppure sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla On Air potete postare domande per Loreto o chiamarci in diretta e sicuramente troverete risposta. Abbiamo ancora 20 minuti fino alle 22, siamo qui in diretta a Bruxelles, siamo a Saint-Gilles e a Radio Alma, come dicevamo, e io prenderei spunto dal saggio che ha citato l'esistenza di più lingue dei segni, e forse possiamo chiedere spiegazione a Loreto riguardo a questa cosa. Due spiegazioni ti devo fare. Sì. Prima, non si dice sordo muti, si dice sordi o sordo. Perché? Perché i sordi non sono muti. E perché esiste questa creazione? Questo viene dall'antico Aristotele, più o meno, che lui ha classificato le malattie e ha detto che i sordi sono sordi e mute. E mute è collegato a stupido, che non ragiona. Non è perché, scusa, io ti faccio riferimento a quello che io sapevo, cioè che alla fine il fatto di non ascoltare mai la propria voce influisce poi sulla propria capacità di parlare, nel senso che nonostante le corde vocali siano lì e si riesca a produrre un suono, non avendo mai questo ritorno di poter ascoltare la propria voce, ciò che viene poi prodotto, diciamo, non è la voce di chi potrebbe avere un'altra persona. Sì, ma l'importante è che la... Non è muto, questo è chiaro. Sì, perché le corde vocali ci sono, ma l'importante è che il linguaggio si sviluppa, non con la voce, ma con le mani. Sì, ma... Ecco, io vi devo interrompere perché a quanto pare abbiamo un ascoltatore in linea che vuole intervenire. Ah, ok. Pronto? Oh, Ciao. Ciao. Ciao, con chi parliamo? Con Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Benvenuto Andrea. Ai colori dell'anima. Grazie, grazie mille. Dici pure Andrea, dici tutto. Niente, vi volevo proporre una cosa molto interessante che avverrà a Bruxelles il 10 novembre prossimo. Non so se tutti sanno che ricorrerà l'estate. È per sordomuti? È per sordomuti? Sordi. Vabbè, io sto in regia, non è che posso. Purtroppo no. Vabbè, allora ti chiudiamo il telefono in faccia, Andrea. Però, cioè, che chiami a fare? Io non lo so. Propaganda spudorata. Vabbè, facciamogliela fare sta propaganda. Oggi siamo buoni. È qualcosa a che fare con i cinque sensi. È il vino, è l'odore del vino, il vino novello. E il 10 novembre vorremmo fare una serata sul vino novello per l'estate di San Martino, dove ogni mosto diventa vino. Che bello. Non so quanti sono all'ascolto e conoscono pochissimi San Martino, la festa di San Martino, perché delle volte anche al sud non si conosce. Quindi organizzeremo dei concerti per questo evento. Che tipo di concerti? Scusa? Che tipo di concerti? Allora, ci sarà un gruppo spagnolo che farà flamenco, poi un cantante italiano, Alfonso, che molti conosceranno anche perché ha suonato diverse volte qui a Bruxelles con il Riso Patate and Folk, il cantante, e poi ci sarà un gruppo di Milano, anche se non è proprio di Milano, ma del sud Italia, tutti emigrati. Come si chiama? 4 on 6. Ok, aspettiamo che posti qualche cosa magari sulla nostra pagina Facebook, così i nostri amici possono commentare. Il posto dov'è che dobbiamo passare la linea in studio un'altra volta? È all'Espacion Bruxelles, il 10 novembre a partire dalle 6. Ci sarà anche un aperitivo e si potrà brindare insieme col vino novello italiano. Benissimo, grazie mille Andrea. Io penso che anche se... a voi. Ciao, ti salutiamo Andrea. E io penso che anche se magari non era un evento per i sordi, scusate, io ho sordomuto e dico sordomuto perché ho un mio amico che è sordomuto, quindi sordo pure vabbè, sì, sordo. vabbè, no, non ci arrivo. Però magari a San Martino, San Martino ogni mosto diventa vino, eppure magari. No, magari uno può bere il vino. Quindi diciamo che Andrea ci aspetta allora il 10 novembre all'Espacion Bruxelles. Quindi sabato. Sabato 10 novembre. Bellissimo. Vi aspettiamo col vino novello. Ma noi aspettiamo anche delle telefonate serie, però. Cioè, fateci. No, ma questa dai. Era seria anche. Quindi riprendendo il discorso non esiste solo un linguaggio dei segni, ma... certo, per esempio noi in Spagna abbiamo la lingua dei segni spagnola e lingua dei segni catalana. Mm-hmm. E poi si vede c'è una varietà dialettale, ed uno chiede al nord, uno chiede al sud. Io per esempio io sono dal sud di Spagna, l'ho già detto, Sevilla. Sì, non hai questa cosa qua, non ce l'hai. No, tu. No, io non parlo spagnolo così, no. Non è poi, trascicata. No. Poi una volta interpretavo con altri interpreti di altri paesi, altre lingue, eravamo 4-5 in scenario. E questa interprete è venuta da me e mi ha detto: ma senti, io sono entrata in ritardo, poi non sapeva che lingua, chi interprete faceva che lingua, baba. Ma ti ho visto a te e ho pensato, questa è spagnola sicuro, perché lei... fa come flamenco quando fai segni. Perché? Perché io sono dal sud, ho questa espressione più dal sud. Anche si vede la differenza nelle isole Canarie, è diversa anche. Ok, Loreto, però ci dicevi che al di là nello stesso paese, che lo so che è ancora più eclatante che nello stesso paese si possano avere più linguaggi dei segni, mm-hmm. ma diciamo quello che volevamo dire è che comunque non esiste un linguaggio dei segni universale, differentemente da come si potrebbe pensare. Non... E quindi esiste anche una lingua che è legata, linguaggio dei segni è legato alla lingua parlata, e addirittura ci dicevi che esiste un linguaggio dei segni diverso in mm-hmm. Australia, negli Stati Uniti e anche in Inghilterra. In Inghilterra, sì. Se tu guardi che tutti hanno la stessa lingua parlata che l'inglese, anche l'inglese parlato dell'Inghilterra non è lo stesso che l'inglese parlato dell'America. Certo. È la stessa lingua, ma ci puoi fare un esempio, anche se non abbiamo attrezzati con i video, però che cosa potrebbe differire? Sono grandi differenze, piccole differenze? Oh, sono grandi differenze. Un esempio, per esempio, se riesci a descrivercelo. Ti posso dire con la lingua dei segni spagnola, che è quella che conosco meglio. Per esempio, per fare politica il segno è così. Si può spiegare un po' come è? Una croce? No. Sì. Facciamo una foto. Potete immaginare come se avete un coltello e lo state limando. Due dita rappresentano un coltello e altre due dita invece lo stanno limando. Dai, facciamo una foto. La mandiamo su Facebook, così tutti potete vedere. Questo è il segno spagnolo di politica. Sì, e il tutto molto velocemente, okay. Perché siamo quasi in chiusura. Ok, e poi ce lo puoi fare in inglese? No, sì. No. Sì, anche in inglese, così lo vedi. Politica. Che è quel gesto che si vede spesso al telegiornale, di quando con i due diti, con le due dita, con i due indici, stasera non so parlare. Ma mi sa che anche tu non hai preso la laurea. Ragazzi. Tra i segni internazionali, il linguaggio internazionale esiste o non esiste? Io qui a Bruxelles, normalmente il lavoro che faccio è con i segni internazionali. Non è una lingua propria. Quindi esiste in realtà. Esiste, ma non è una lingua. È come un modo di comunicarsi. Un po' come l'esperanto. Sì, ma no, ma sì. Così, sì, io dico esperanto, l'esempio è più chiaro e tutti capiscono. Ma non è come l'esperanto, ma serve. La base sono i segni americani. Nel senso che non c'è nessuna lingua parlata che corrisponde a quel linguaggio dei segni. Infatti, sì, se io mi trovo una persona sorda di Cina, non è che possiamo... comunicarvi tra noi è più facile che comunicarsi per esempio, che provare a comunicarsi con una persona parlando cinese, io parlando inglese, spagnolo, italiano o qualcosa. Per uno che utilizza lo spazio e i segni, la comunicazione sarà più facile. Mamma, che bella questa puntata. La puntata scorsa abbiamo avuto Paolo Loveri e Roberto Ricci con musica live qui in studio, e questa sera abbiamo Loreto Galan che ci ha aperto proprio una porta, un mondo su questo emisfero poco conosciuto, oddio, conosciuto da chi lo vive in prima persona, dalle famiglie che hanno magari dei figli o dei parenti che sono sordi, quindi affetti da sordità, e però poco conosciuti a noi persone che purtroppo non ci pensiamo. Vabbè, io sono terra, mi scuserete, ma a volte per me è un po' difficile, soprattutto quando gli argomenti sono belli, non riesco ad essere così avvocato e psicologo come i nostri due conduttori. E prendo la palla al balzo per presentare il prossimo brano. Siamo quasi in chiusura, ma c'è ancora tempo per un altro brano e per il momento zen che arriverà a tra poco. E il prossimo brano è di un gruppo che ormai non suona più, però sono stati veramente sulla cresta dell'onda qui a Bruxelles. Greetings from Mercury, il brano che eseguono con noi qui in studio dal CD Greetings from Mercury, appunto, è Evia. E ritorniamo piano in studio, perché stavamo parlando di un tema bellissimo, e se non sento come parlo, cosa dico. E infatti apriamo di nuovo i microfoni nello studio. Ma cos'è? Un'altra volta queste interferenze? Ma io non lo so! Ma per piacere! Ma chi è? Dalla Cina, proverbio digestivo. Chi la fa, l'aspetti. Chi non la fa, provi Guttalax. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. E ancora qui ai Colori dell'Anima, e chiedevamo a Loreto Galan, ospite di questa nostra trasmissione particolarissima sull'interpretariato del linguaggio dei segni, da parte tra l'altro di una sevigliese, come si dice? Sevigliana. Che parla perfettamente italiano, quindi le facciamo i complimenti. Le chiedevamo quale colore sceglie per questa trasmissione. Io sceglio il verde, che mi piace un sacco. Il verde. Verde speranza. Verde. Ecco. E le chiedevamo anche di, non so se vuole passare un messaggio a qualcuno in particolare, a parenti, amici, di persone sorde. Il messaggio è non solo per quelle che hanno la famiglia, qualcun membro familiare. Qualcun familiare sordo, o che ha, che non è normale come quello che noi, la società, dice che devi essere normale. Nella varietà c'è la ricchezza. Anche la cosa più importante che ho visto sempre è il sostegno della famiglia. Bisogna che la famiglia accetta che i figli che vengono sono speciali, sono diversi e sono nati per arricchire. Beh, guarda, io dopo questa cosa che hai detto, cioè, che c'è di più? Che c'è di più? Io penso che dovremmo proprio staccare la trasmissione a 21:57, cioè, perché dopo questa cosa io ti ringrazio vivamente di essere venuta qui in trasmissione con noi questa sera. Grazie a voi per invitarmi. Ti ringraziamo tanto. Speriamo che abbiamo potuto tutti insieme questa sera fare un po' di luce in questo mondo un po' buietto. Giampaolo mi chiede la linea. E a proposito di parenti, devo segnalare, c'è Luis Rodriguez che dice di essere tuo cugino. È il mio cugino. E ti fa i complimenti, scrive bravissima, commentando le foto che abbiamo postato sulla pagina Facebook. E tantissimi altri ci hanno scritto, adesso non riesco a salutare tutti, però Rossella Riggio, Antonella Gangemi, Giovanni Trotta, Giuseppe Alfieri e tantissimi altri. Vi ringraziamo per essere con noi, per seguirci sempre con affetto, con interesse. E che dire, ciao a tutti. E che dire, nel calore di Radio Alma, perché qui sudiamo, siamo in clima hawaiano. Mi piace. Un grandissimo ringraziamento a Loreto Galan per essere stata qui con noi e averci dato la possibilità di parlare di questo argomento di cui ignoravamo quasi tutto. Quindi grazie dei chiarimenti, di tutto ciò che ci hai apportato, dei tuoi valori anche. E grazie a Giampaolo che ha curato la nostra pagina Facebook e non solo. Grazie. Ciao. Grazie Angela alla regia e grazie a voi che ci ascoltate ogni lunedì. Ricordiamo le nostre frequenze. 101.9 FM, ogni lunedì Radio Alma e Colori dell'Anima dalle 21 alle 22 vi farà compagnia. La nostra pagina Facebook. Angelo e Carla On Air, ci trovate su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/Angelo e Carla. Il prossimo lunedì del mese, che è novembre. Il 5 novembre. No, l'ultimo lunedì del mese. Il 26 novembre, che avremo Stéphane Mercier, grandissimo sassofonista. Ragazzi, è proprio tutto. Noi vi salutiamo. Arrivederci. Ci vediamo il 26. Ci sentiamo. Lunedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma. Rosanna, Anna Maria, Cristina, Barbara, Roland, Donatella, Carla, Angela.